Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:07, gentili ascoltatori, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. In Italia non sarei mai riuscito a fare un'operazione del genere, la ricerca d'altronde è in mano ai baroni. Parola di Paolo Macchiarini, un medico che due giorni fa ha spiegato un trapianto di trachea antirigetto, un trapianto il primo del genere al mondo, e per un attimo noi italiani, sapete come siamo fatti, no? Ci siamo anche un po' inorgogliti con quell'atteggiamento un po' tipico di prenderci i meriti altrui quando questo altrui è un connazionale e fa una buona cosa. Solo che Macchiarini ci ha inchiodato a questa responsabilità, a dire in Italia non l'avrei mai fatto, perché lui ha un cervello in fuga, uno di quelli che piuttosto che sottostare ai concorsi truccati, alle cattedre già decise per i figli dei professori o i figli degli amici, piuttosto che vedere una ricerca in mano ai soliti baroni, è andato all'estero dove ha avuto successo. www.laricercacalpestata.it. Se cliccate su internet, su questo sito, troverete le facce e le storie di circa 2000 ricercatori per ora, che tra l'altro la prossima settimana metteranno la propria faccia, proprio la foto della propria faccia in terra a Bologna per strada, in modo che i passanti la calpestino. La ricerca calpestata, per l'appunto. Perché l'Italia investe meno dell'1% del PIL in ricerca quando l'Europa chiede che almeno sia al 3%, e in alcuni paesi europei è sopra il 3%? Perché basta aprire i giornali e tutti i giorni, anche oggi, si scopre che concorso in università ormai sembra essere un sinonimo di scandalo, di truffa, dove tutto è già deciso, tutto è già stabilito. La ricerca calpestata, parliamo oggi con diversi ospiti, vi faremo ascoltare anche alcune storie di ricercatori, chi se n'è andato, chi sta per andarsene, chi è un grande ricercatore e potrebbe essere una risorsa per l'Italia, ma probabilmente se ne andrà. Intanto voglio salutare il professor Marco Lanzetta. Buongiorno professore. Buongiorno. Marco Lanzetta è il direttore dell'Istituto Italiano di Chirurgia della Mano, è un professore che forse ricorderete, insomma, nel 98 ha effettuato a Lione per la prima volta al mondo un trapianto di mano da cadavere, nel 2000 ha effettuato il primo trapianto al mondo di entrambe le mani, uno di quegli italiani di cui appunto andare orgogliosi. Tra poco ci spiegherà perché nel mondo, dal punto di vista universitario, se n'è andato dall'Italia. Voglio salutare anche Massimiliano Cavallini, che è un ricercatore al CNR di Bologna. Buongiorno, buongiorno Cavallini. Allora, ci racconterà anche lui la sua storia. Tanto per dire, Massimiliano Cavallini è uno dei pochissimi ricercatori italiani che ha vinto quello che è definito il premio Nobel dei ricercatori, un fondo di circa 2 milioni di euro assegnato da una società europea. Probabilmente, forse, speriamo di no, a febbraio Cavallini dovrà andarsene dall'Italia. 9:11, 800 24 00 24. Perché in Italia si fa poco per la ricerca o si fa male per la ricerca, e i ricercatori spesso, e i professori, gli studiosi, i cervelli vanno all'estero. Professor Marco Lanzetta, come detto, 44 anni, direttore dell'Istituto Italiano di Chirurgia della Mano. Professore, la stupisce che il suo collega, insomma, Paolo Macchiarini, trapiantologo, dica io un'operazione del genere in Italia si potrebbe anche fare tecnicamente, ci sono gli strumenti, ci sono i cervelli, ma con il livello di baronie che ci sono non sarei mai potuto emergere? Assolutamente sì, è un'analisi spietata ma perfetta. Adesso ascoltavo il borsino del mercato azionario, no? E stavo immaginando che le nostre università si mettano sul mercato azionario. Penso che le azioni dell'università italiana non le comprerebbe nessuno, perché è un investimento destinato a fallire miseramente. Vediamo un crollo dell'Accademia italiana, le università italiane si lamentano che il ministro paga i fondi e invece nessuno parla del fatto che siamo agli ultimi posti in Europa e al mondo come livello di insegnamento, di qualità, di ricerca. Quindi prima di andare a richiedere fondi in aggiunta bisognerebbe usare bene quelli che ci sono e soprattutto rendersi conto che ormai abbiamo perso la corsa con gli altri paesi europei. Senta, perché leggere sui giornali, ora si scopre appunto che io dico concorso sembra sinonimo di truffa, sembra sinonimo di... cioè è così, non è che è così da oggi, voglio dire. Lei dice perché lo è da sempre, ma va bene a tutti che sia così. la cupola universitaria è trasversale, fortissima, si autoregola, si autoalimenta, decide chi, dove, quando e perché. Quindi è una società d'affari dove niente viene lasciato al caso, i concorsi vengono molto attentamente pianificati mesi e mesi prima che vengano esaminati i candidati. Senta, lei insegnava all'Università di Milano Bicocca, ora insegna dal punto di vista accademico, insomma è in Italia come direttore dell'Istituto Italiano di Chirurgia della Mano, ma ha preferito andarsene un po' lontano, in Australia, a Canberra, a insegnare lì, alla University of Canberra. Perché? Ma perché io non ero più compatibile con un sistema di questo tipo e quindi non potevo continuare a lavorare e allo stesso modo criticare un sistema che non mi appartiene assolutamente, dove la meritocrazia è l'ultimo delle cose che vengono considerate, e quindi anche per il mio passato di sportivo non accetto un mondo dove vanno avanti i raccomandati, i figli di e i nipoti di. Tenga presente che io sono un figlio di, perché mio padre era ordinario di ortopedia all'Università di Milano, quindi avrei potuto avere anche la strada spianata. Ma il problema è rifiutare in blocco questa impostazione dell'Università Milano, che si sta facendo del male, che blocca ai giovani ricercatori la possibilità di far carriera come loro parietà in Europa e al mondo, e quindi è un sistema da riformare completamente. Il ministro Gelmini sta facendo quello che può, come altri ministri prima di lei, e io sono completamente dalla sua parte. Ma vediamo già che gli anticorpi universitari si sono alzati in maniera importantissima, e il decreto per la riforma dei concorsi è un decreto annacquato. Ha letto che in pratica si propone di formare delle commissioni di esame che non abbiano più 5 candidati, 5 commissari, ma 12 scelti a sorte. Ma questo per l'università non è assolutamente un problema. Si lavorerà ancora con più pazienza e con certosina, cinismo, per scegliere 12 candidati allineati a quello che è stato già deciso, e non cambierà assolutamente niente. In questo lei dice quindi non cambia granché, voglio dire, questo specifico tipo di riforma, nel senso che l'università si organizzerà per controreagire. Ma figuriamoci se l'università è spaventata del fatto che invece di 5 commissari ce ne dovranno essere 12. Allora incominciamo a fare una riforma dei commissari su 5, 2 sono universitari e 3 sono di università straniere. Per prima cosa, perché gli stranieri non sono facilmente assoggettabili a queste logiche mafiose che ci abbiamo in Italia. E poi magari nelle commissioni universitarie anche dei personaggi della ricerca, del mondo scientifico, imprenditoriale, grandi personaggi italiani che hanno capacità di giudizio, e scegliamo così i professori universitari che stanno a capo di dipartimenti o di grandi istituti di ricerca. Allora, visto che con noi c'è Massimiliano Cavallini, e tra poco sentiremo la sua storia, le chiedo però cosa ha trovato, le tre cose che l'hanno colpita della diversità tra l'insegnamento e quindi il mondo accademico in Australia, perché lei adesso è lì in Australia a insegnare, rispetto all'Italia. Le tre cose che proprio di impattanti che l'hanno sconvolta. Quelle che sconvolgono tutte, le tre cose sono una sola: meritocrazia, meritocrazia e meritocrazia. Queste sono le tre cose. Chi è bravo va avanti, chi non è bravo sta al palo, cambia strada. Se in Australia sei figlio di, nipote di o amico dell'amico, la tua vita è più difficile all'università, perché devi provare di essere almeno bravo come un altro che è venuto dal niente. Qua è assolutamente il contrario, è frustrante, è disarmante ed è pazzesco che un ricercatore come quello che è in trasmissione oggi, che ha fatto questo intervento straordinario in Spagna, dichiari il giorno dopo: in Italia non l'avrei potuto mai fare. Eccoci. Massimiliano Cavallini, no, non è il professore che ha fatto il trapianto, Massimiliano Cavallini, però no, è un ricercatore che ha vinto, gli è stato assegnato nel 2006, credo, Cavallini, sì, questo EURAI, allora sostanzialmente European Young Investigator Awards, cioè sono una sorta, definito un premio Nobel dei ricercatori, ogni anno vengono scelti alcuni dei giovani ricercatori, vengono scelti dei progetti, valutati e vengono finanziati. Nel 2006 ha vinto, questo è stato scelto tra gli altri da questa European Science Foundation, che gli ha dato sostanzialmente quanto per finanziare il suo progetto? Allora, per finanziare il mio progetto, compreso del mio salario, 1.111.000 euro. Ma però 1.111.000 non è che se l'hai messo in tasca, diciamo, c'è lo stipendio più tutto il finanziamento del progetto. Del progetto sì, e che progetto è? Cioè lei di cosa si occupa? Io mi occupo di nanotecnologie. Nanotecnologie. Quindi diciamo un settore un pochino diverso rispetto ai miei colleghi diciamo che hanno sollevato problemi più all'università. Devo dire che io parlo più per un problema di CNR, nel senso di ente non universitario, dove le cose vanno un pochetto diversamente, anche se abbiamo tantissimi certo. problemi. Devo dire che la parola chiave citata dal collega è sacrosanta, meritocrazia, deve essere un parametro di valutazione, il parametro di valutazione di tutti dei ricercatori come dei professori, perché altrimenti partiamo battuti nella competizione internazionale. Senta, lei questo 1.111.000, cito bene, ricordo bene, sì. 1.111.000 euro di finanziamento, sostanzialmente lei fa parte di quei ricercatori per i quali c'è un contratto a termine, insomma non è, esatto. non è assunto a tempo indeterminato. Paradossalmente mi sono trovato in questa situazione, che io sono un pochino, forse ho una visione un pochino più ottimistica della ricerca italiana, perché ci sono anche delle realtà, delle eccezioni rispetto a una situazione abbastanza problematica. Queste eccezioni penso che a Bologna sia una di queste a cui io credo. Però paradossalmente mi sono trovato nella condizione di, dopo un lungo periodo in cui uno passa, impara a fare ricerca, impara anche a reperire fondi, che è uno dei problemi grossi, io ho avuto questa possibilità, sono stato anche molto fortunato, riesco ad avere una quantità ragionevole di fondi. Il problema è che con il decreto 133, che pone a 5 anni i limiti di possibilità di precariato, io in questi 5 anni stanno per scadere, insomma, a febbraio li scadono i 5 anni. Esatto. Dunque lei sostanzialmente in teoria non è più rinnovabile a termine, o si fa, mi pare di capire, un concorso sperando che sia... che si esatto. faccia e che sia un concorso vero, esatto. O se no deve cambiare lavoro. A questo punto immagino si stia guardando anche all'estero, no? Io questo per forza di cose, anche se devo dire che specie negli ultimi tempi, perché quando questi problemi sortono fuori sempre quando uno si avvicina alle deadline, alle scadenze, devo dire che ho riscontrato recentemente da parte dell'istituzione la volontà di risolvere il problema in qualche maniera. C'è una serie di soluzioni possibili, le strade sono molto complicate, certo. Ed è questo uno dei problemi, che manca anche dall'alto una regolamentazione, i parametri per poter applicare, anche laddove si vuole applicare la meritocrazia. C'è tutta una serie di problematiche di tipo legislativo e regolamentare che dovrebbero forse essere riviste. Ovviamente se lei andasse all'estero, visto che il progetto di 1.111.000 euro le è stato finanziato, non è che è esatto. vincolato al CNR di Bologna, esatto. se lei se ne va, ipotizziamo, in Spagna, lei si porta con sé una bella dote di quel progetto di 1.111.000 esatto. euro che regaliamo alla Spagna con lei. Che regaliamo alla Spagna, che sono ben felici di prenderseli. Di prenderla, come non invidiarli da quel punto di vista. Allora, mi lasci dare un ascoltatore, poi voglio tornare dal professor Lanzetta, anzi un'ascoltatrice che ci ha chiamato all'800 24 0024, Mara da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io sono ricercatrice e devo dire che in questo periodo è molto frustrante per noi dall'università sentire questo attacco veramente da tutti... Ormai tutti sono esperti del mondo accademico e purtroppo veramente è veramente frustrante. Comunque, al di là di questo, la mia esperienza è un'esperienza diversa, nel senso che è stato molto difficile entrare in ambito universitario, però io ce l'ho fatta, ci sono riuscita, non ho parenti, non ho conoscenti, le posso assicurare che nell'ambito della mia facoltà, che è una facoltà di medicina, i casi di nepotismo sono veramente pochi, ci sono purtroppo, devono essere più controllati l'ingresso del personale universitario, però effettivamente stiamo parlando di percentuali molto basse. Molto basse. La vita del giovane ricercatore è molto difficile, il dottorando prende uno stipendio da fame, Io al mio tempo prendevo 1 milione al mese. Bisogna andare avanti con borse di studio, non si sa se arrivano, non si sa se si è pagati, quando si è pagati, è veramente duro. Quindi le persone che si approcciano col mondo universitario hanno il desiderio proprio di entrare a far parte del mondo accademico. No, ma su questo non c'è, Mara, poi non bisogna ovviamente generalizzare, e noi qua non l'abbiamo mai fatto, voglio dire, lei racconta questa storia. Professor Lanzetta, cosa vogliamo dire a Mara da Genova, che dice insomma non dipingiamo sempre tutto come se fosse truccato, come se fosse anzi, io sono una ricercatrice, dice, che guadagno pochissimo, ho sempre guadagnato poco, ce l'ho fatta con le mie forze e ce l'ho fatta entrare, credo in questo mondo. Lei, che è un professore affermato, cosa si sente di dire a Mara? Mi sento di dire che il mondo universitario è in una crisi nerissima e va riformato. Gli stipendi sono bassi rispetto al resto dell'Europa, può anche essere, però le sembra possibile che in Italia si possa rimanere cattedratici di chirurgia toracica fino a 72 anni? Ma chi è che si vuole fare operare a un torace, a un cuore, a un polmone, da un vecchio di 72 anni che è direttore del reparto del dipartimento solamente perché è prima fascia universitario? Allora cominciamo anche a svecchiare, mandiamo in pensione i professori universitari almeno in alcune facoltà come quella di medicina, dove lavora la collega, a 65 anni, e magari invece di sprecarne l'esperienza e le risorse, chiediamo a questi professori, diciamo, fuori ruolo, e che quindi daranno posto ad altri più giovani, con più voglia di fare, con più energie, più aggiornati. Chiediamo invece di partecipare a progetti magari con un valore sociale più importante, umanitario, di volontarismo, progetti che l'università può fare in paesi sottosviluppati, cioè cerchiamo di riutilizzarli in altro modo. Cioè Mara è vittima di che cosa, secondo lei? Vittima nel senso del fatto di doverci credere così a lungo, di essere pagata così poco, ci sono in tante università tutto regolarmente, però è la sua condizione, che è una condizione insomma in cui deve credere molto invece di essere valorizzata da subito, di cosa è vittima? Ma è vittima appunto di questo stato delle cose. Lei diceva che è stato difficilissimo entrare in università, come mi rendo conto che deve essere così quasi per tutti, ma mi voglio pensare quali sono le prospettive di questa ricercatrice di far carriera all'interno della sua università. Lei dovrà prima o poi pensare a partecipare ai concorsi da professore associato, e spero anche da professore di prima fascia più avanti, cioè fare una progressione accademica che vada di pari passo con la sua esperienza e con la sua produzione scientifica. Io mi chiedo che tipo di prospettive di futuro abbia questa collega, come tutti gli altri ricercatori italiani, quando davanti hanno degli scogli insuperabili, che sono dei professori che staranno in cattedra fino a 70-72 anni. Allora io do, poi so che il professore la devo salutare, do un altro ascoltatore, poi ci ha raggiunto anche un altro ricercatore che ci racconterà la sua storia anche nella seconda parte insieme a Massimiliano Cavallini. L'ascoltatore è Davide da Como, buongiorno. Sì, pronto? Dica, Davide. No, volevo dire ovviamente la mia esperienza, partire dall'università, subito dopo l'università posso dire che adesso tipo già il 20-30% dei miei compagni di università sono all'estero, e molti stanno migrando verso paesi che non sono più gli Stati Uniti o l'Inghilterra, così, ma sono la Spagna, che come paese è sempre associato a noi, ma evidentemente cresce di più e si evolve di più in questo senso. Ma stanno andando all'estero perché in Italia... assolutamente non fattibile. In che campo lavora lei? Cos'è? Io un ricercatore in ricerca oncologica, lavoro qui a Milano. In medicina, insomma. Sì. No, ma il fatto è che proprio sentendo anche la ragazza di Cremona di prima, mi è venuta in mente invece la mia esperienza con il concorso universitario, che è stata veramente ridicola. Mi sono trovato a fare concorso e il professore, che prima ancora di farlo mi ha candidamente confessato: guardi, non venga neanche, perché questo concorso è fatto per un mio borsista che in questo momento è a Londra e che sta per tornare il concorso per lui, e quindi voglio dire, veramente la truffa così. Poi vabbè, per fortuna sono arrivato appunto in questo centro di ricerca qui a Milano, dove è applicato un sistema tra virgolette anglosassone, che fa uso di meritocrazia. Gruppi che funzionano e vengono mantenuti, gruppi che non funzionano, che non riescono a raccomodare, vengono smantellati. pubblicati. Non pubblicano abbastanza, vanno eliminati. Insomma, ma lei ci crede o fa come quel 20%? Ci crede, insiste? Io vorrei rimanere, perché comunque anche il pensare di aver pagato, speso, e anche lo Stato italiano che investe su di me, la scuola e tutto, e pensare di buttar via tutto e portarlo all'estero mi darebbe un po' fastidio. Io vorrei rimanere qui e spero di poter continuare a fare quello che sto facendo qui. Va bene, che... non è facile, insomma, ma no. le facciamo molti auguri. Grazie Davide. Io allora saluto e ringrazio il professor Marco Lanzetta, che ricordo, insomma, dirige l'Istituto Italiano di Chirurgia della Mano, uno dei più famosi trapiantologi della mano al mondo italiano. Insomma, anche qui lo dico con un pizzico di orgoglio, quell'orgoglio di cui ci appropriamo, come detto, per il quale ci appropriamo anche dei meriti altrui quando sono meriti di connazionali. Grazie professor Lanzetta. Voglio salutare Antonio Porro intanto, prima di andare in pubblicità. Porro, buongiorno. Buongiorno. Lei ci parla da Losanna, credo? Sì, io parlo da Losanna. Perché lei è un ricercatore italiano, a Bologna, credo. Mi dica solo un dato, poi approfondiamo dopo la pubblicità. Sì. Lei a Bologna quanto guadagnava da ricercatore? Ma a Bologna ho fatto il dottorato di ricerca e guadagnavo praticamente sugli 800 euro, che è praticamente la borsa ministeriale. 800 euro, in che campo lei si occupa di? Ma io faccio genetica molecolare, biologia molecolare. Perfetto. A Losanna guadagna adesso? Perché ovviamente se n'è andato, perché, cioè, se ce lo vuol dire. No, diciamo che guadagno più o meno tre volte tanto, insomma. Tre volte tanto. Io lo voglio ricordare, andate a vederla su questo sito www.laricercacalpestata.it. Vedrete proprio, a me piace questa iniziativa, se non altro, le facce, i volti, le storie, i racconti di questi ricercatori che si metteranno in piazza Bologna con la loro foto per terra, perché la gente la calpesti passando, insomma. Perché è bello vedere i volti, insomma, capire che ci sono giovani, meno giovani, gente che ha investito in questo settore. Allora, c'è con noi Massimiliano Cavallini e Antonio Porro, ci sono anche gli ascoltatori, tra poco vado da loro. Antonio Porro, allora, lei, leggevo di recente che ha fatto una scoperta chiave, per, la dico così, insomma, non è la mia materia, come puoi immaginare, per nuove terapie cosiddette intelligenti contro i tumori, pubblicata anche da una importante rivista americana, nel suo ambito di ricerca. Esatto, nel senso che è stata praticamente una ricerca pubblicata dal giornale dell'Accademia delle Scienze Americane. E io fondamentalmente mi occupo di studi di base, quindi di ricerca di base, e svela, diciamo, un meccanismo abbastanza nuovo che può essere preso come target per delle future terapie contro diversi tipi di tumori, certo, ma sono diciamo, la ricerca è apprezzabile, buona, ma quando si lavora dei buoni risultati, normalmente si riescono ad aggiungere dei buoni risultati. E poi buona, ma insomma va perfezionata, bisogna studiare. Il ruolo della ricerca è questo, insomma, cioè, nel senso che far ricercatore apposta, insomma, per continuare esatto, a proseguire. Soprattutto io ho detto, faccio soprattutto ricerca di base, quindi significa che diciamo, do un meccanismo, cerco di spiegare un meccanismo, ci saranno, è un primo step, poi ci saranno degli step successivi su cui altri ricercatori che lavorano, appunto, magari su un punto di vista farmacologico, possono appunto partire da questo meccanismo per cercare poi delle eventuali. Senta, terapie. Porro, al di là di quello che entrava in tasca lei, 800 euro in Italia, sì, e circa il triplo in Svizzera, ci dica che cosa anche di più, ci dica che cosa ha in Svizzera come supporto della sua ricerca che in Italia non aveva. Ma infatti il problema è questo, il problema non è tanto il mio stipendio, che comunque diciamo, quando si è giovani si può sopportare anche una situazione iniziale di questo tipo. Il problema è un problema di budget del laboratorio in cui si lavora. Il laboratorio in cui io lavoro qui ha svariati fondi di ricerca, alcuni europei, alcuni svizzeri, e diciamo che fondamentalmente noi che facciamo ricerca non ci dobbiamo preoccupare di questo aspetto. Questo significa fondamentalmente cercare, perché la ricerca è cioè non tutto quello che pensi è giusto, quindi significa poter investigare differenti aspetti, poter appunto permettersi anche di spendere dei soldi senza avere dei risultati. Mi dica però una differenza, cioè il budget, mi faccia come il dato del suo stipendio, me lo faccia capire tra Italia. Allora, lo dico, il budget che il laboratorio penso che disponga attualmente, perché poi questo ovviamente lo sa il mio professore, cioè, parliamo intorno al milione di euro, insomma. Un milione, e in Italia? In Italia parliamo di cifre risorse, parliamo di 20-30 mila euro l'anno, insomma. Bene, insomma. Quando andava bene, insomma. Allora. Lei capisce che. Capisco benissimo. Non può sbagliare un colpo, nel senso che comunque tutto quello che fai deve essere. Cioè, devi avere la fortuna che sia ammirato, insomma. Questo comunque. Allora, andiamo da un paio di ascoltatori, poi ci ha raggiunto anche un altro ricercatore che adesso è in Italia, ma insomma è andato, credo, in Germania. Anzi, sì, in Germania. Diamo due ascoltatori prima. Rosa Maria da Genova, buongiorno. Oh, vi ringrazio tanto. Dica. Saluto tutti. Dunque, io mi rifaccio un pochettino alla giovane ricercatrice di Genova. Ora voi di Cremona dovete... forse, Mara da Cremona forse da... Ma non... da Cremona. Da Cremona, ma non importa. Noi siamo a Genova. Allora, questa città è particolarmente politicizzata, perché bisogna dire tutto. Allora io voglio segnalare, premesso la nostra anche catastrofica situazione economica della nostra nazione, per cui si possono fare dei peccati di gola, come posso io dare una battuta. Allora, io voglio denunciare un fatto gravissimo che è successo qui. Allora, è stato allontanato un primario medico, uno scienziato a livello mondiale, è stato imprigionato, tipo tortora, diciamo così, che sì ha fatto dei peccati, ma il suo peccato più grosso è quello di cercare di far lavorare la sua, perché aveva una responsabilità non indifferente, e la sua equipe. Non so se mi sono spiegato. Ed è stato, vi ho detto, allontanato, denigrato, imprigionato. Addirittura. Volevo anche fare un appello al ministro Brunetta che si interessi di questo fatto. Vabbè, io, Rosa Maria, magari ce lo scriva anche via mail con qualcosa di più specifico, il nome, la storia, insomma, la prendo così cos'è, così com'è, ma non ho elementi non conosco la vicenda, magari ci scriva anche il nome, il professore di cui si sta parlando, le prometto insomma che ci informeremo di questa vicenda e se è il caso informeremo anche noi il ministro Brunetta se ci sono gli estremi. Paolo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora niente, no, io ho una vicenda vissuta di riflesso, perché ho mio fratello negli Stati Uniti ormai da 8 anni, perché anche lui, come tanti altri che sento ormai, pur di non sottostare al baronato contro alle situazioni per cui esce il concorso messo nell'angolino della bacheca perché è riservato solo a qualcuno, niente, lui dottorato di ricerca, 110 lode laurea, è arrivato negli Stati Uniti, si è fatto largo, ora sono 8 anni, genetica vegetale, si è fatto anche una famiglia, però tutto questo forse sarebbe stato diverso se l'Italia era un paese diverso, sicuramente un paese normale, e vabbè, è andato negli Stati Uniti. Sì. Grazie Paolo, insomma ne arrivano tante di testimonianze così. Io voglio tornare anche da Massimiliano Cavallini, voglio salutare anche Francesco Giacosa, buongiorno. Lei quanti anni ha? Io ho 32 anni. Adesso è in Italia, ma insomma credo sono in questi giorni. Sono in Italia per ragioni burocratiche. Sì, però è ricercatore di che campo? È fisica teorica, fisica delle particelle presso l'Università di Francoforte. A Francoforte, dove... Perché è andato via? Allora, io non sono fuggito dall'Italia. Dopo la laurea, nel 2001, volevo fare il dottorato all'estero. E ho parlato con la mia relatrice ai tempi, che mi ha anche aiutato a trovare un posto che ho trovato a Tubinga, una cittadina a sud di Stoccarda. Lì eravamo tra l'altro 3 italiani, in una situazione ottima, in un'ottima università, ho fatto quindi il dottorato. Quello che la mia esperienza con l'Italia negativa è purtroppo arrivata dopo, cioè quando nel 2005 ho finito il dottorato, e chiaramente tra le varie possibilità contemplato anche quella di tornare nel mio paese. Mm. E quindi ho cercato di trovare un posto in Italia. Ma è vero, ecco, io leggevo su Repubblica, che credo ieri la sua storia, ha parlato di un concorso nel quale ha parlato di una figura particolare. Io questa non la conoscevo ancora. Le comparse. Ah sì, le comparse, ma sono abbastanza famose. Cioè, definite forse, ma ci spieghi cosa sono le comparse? Le comparse, il nome è venuto a me. No, infatti. Però capita, un mio amico l'ha fatto di recente questa cosa, è andato appunto in Italia a fare la comparsa. Cioè, cosa vuol dire? Un suo amico ha fatto la comparsa a un concorso, cioè? Sì, per evitare che ci sia solo il candidato prescelto, che già si sa prima che... Sì, che è quello che vincerà. Ecco, e quindi non pare bello, perché quando capita, chiaramente arrivano anche i giornali, eccetera, allora si fa in modo che ci siano altri candidati che non hanno possibilità di vincere, perché quelli che magari hanno possibilità di vincere non vengono indotti a fare. Però salvano l'apparenza del concorso. Esatto, partecipano in modo che tutto sembri in qualche modo regolare. Ah, le comparse, insomma, lei conosce anche una persona che l'ha fatta. E chi fa la comparsa, sì, chi fa la comparsa spera che dopo un po' venga poi organizzato un concorso. Nel senso, no, certo, uno si conquista sul campo da comparsa il diritto poi da diventare da primo attore, insomma, in un concorso, esatto, in un concorso successivo. Allora, guardi, le sue ultime parole, Giacosa, le ha anche ascoltate. Io lo saluto, so che si è liberato, per noi starà nell'ultima parte, subito dopo il traffico, da un convegno. Il sottosegretario a welfare Ferruccio Fazio, professore, buongiorno. Come può immaginare, professore, abbiamo avuto e abbiamo tanti racconti, qualcosa colto in chiusura di questo ricercatore Francesco Giacosa, che insegna fisica teorica, ricerca fisica teorica, è all'estero, in Germania. Antonio Porro sta in Svizzera, Massimiliano Cavallini, che è con noi, ha vinto 1.100.000 euro di finanziamento, ma forse a febbraio gli scade il contratto definitivamente e dovrà andare all'estero. Insomma, perché la ricerca italiana, Fazio, è così in difficoltà? Per esempio, non si dovrebbe cominciare a iniziare a investire di più di PIL, dallo 0,9% a aumentare almeno all'1,5%? E bisogna anche tenere presente che, come percentuale, tra ricerca pubblica e ricerca privata, la ricerca privata è molto bassa in Italia. Probabilmente occorreranno degli interventi, come interventi anche favoriti dal punto di vista fiscale, a favorire le aziende a investire in ricerca e così. Che però la situazione sia così drammatica, in realtà io non ho questa percezione, nel senso che anche se gli investimenti sono bassi, la produttività dei ricercatori italiani è comunque abbastanza buona. Certo che i meccanismi di finanziamento della ricerca fino adesso in Italia in qualche caso hanno lasciato desiderare. Professore, prima, nella prima parte c'era anche Marco Lanzetta, che insomma lo conoscerà, è uno dei famosi... Lo conosco da 30 anni, ecco. E anzi mi ricordo quando io ero nel comitato di biologia e medicina CNR negli anni 80, che gli abbiamo anche dato dei contributi per i suoi primi studi che faceva in Australia. Lui però è stato molto duro nel dire, per esempio, basta leggere i giornali e sembra che la parola concorsi sia sinonimo ormai di truffa in università, e lui ha detto: ma perché così è? Ma lei vuole parlare di ricerca o di concorsi universitari? No, vabbè, insomma, sono anche... No, sono robe diverse, anche perché io non ho la delega, come... No, lo so, però come lei sa, per diventare ricercatore bisogna anche a volte fare un concorso, insomma, quindi... Pensi che non sono assolutamente d'accordo che per diventare ricercatore bisogna fare un concorso? Lei pensi che la vita media di un ricercatore negli Stati Uniti, nel senso il tempo in cui vengono dati i finanziamenti, sono 7 anni? E il sistema degli Stati Uniti prevede che il ricercatore non abbia un posto di ruolo necessariamente, ma venga finanziato, il suo stipendio venga finanziato in base alle proposte di ricerca che fa. Ora, capisco che in Italia non è così, ecco, ma volevo semplicemente significarle che non necessariamente bisogna fare un concorso per diventare ricercatore. Il ricercatore è una fase della vita in cui si fanno un certo tipo di attività, e naturalmente è opportuno che chi le fa poi bene abbia comunque uno sbocco professionale nella ricerca o in altri settori come possono essere l'università o le professioni. Ma chi la valuta in Italia la ricerca? Perché lei ci ha detto finora è stata valutata in alcuni casi male o ma guarda, con che criteri dire, voglio le dire? Le posso dire diciamo quello che stiamo facendo per la ricerca che finanziamo come Ministero del Welfare, settore salute, che non è un poco perché quest'anno nel 2009 faremo un bando di 100 milioni di euro che sarà aperto a tutti coloro che lavorano negli ospedali e negli istituti di cura a carattere scientifico, in quanto l'università ha altri diciamo canali per il momento, anche se sarebbe utile avere dei canali comuni. E in questo bando abbiamo introdotto dei criteri nuovi per l'Italia, ma non nuovi per il mondo, perché sono gli stessi criteri che il National Institute of Health, cioè l'ente americano della ricerca, sono criteri di assoluta trasparenza, usa da parecchi anni. So che oggi credo ci sia anche una conferenza stampa con il senatore Marino, è così? Sì, perché abbiamo concluso il bando dei giovani ricercatori e lanceremo il bando dei giovani ricercatori per l'anno prossimo. Per favorire i ricercatori sotto i 40 anni soprattutto, sì, dare un canale preferenziale a loro? Non solo preferenziale, ma questi erano addirittura bandi riservati. Per il 2008 faremo un altro bando riservato di, mi sembra, 26 milioni di euro, come ma un altro lo farà anche il MIUR, il Ministero dell'Università, o meglio il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, e dal 2009 invece metteremo una quota riservata agli under 40 proprio nel bando generale della ricerca che verrà fatto con i criteri che le accennavo. Lei dice la produttività in realtà in Italia c'è, però leggerà anche lei insomma di storie di molti ragazzi, di molti giovani e un po' sono anche qui nella nostra trasmissione che l'ascoltano, che o sono andati all'estero o stanno per andare all'estero o stanno valutando l'idea di andare all'estero. Guardi, perché ho vissuto 8 anni all'estero e poi mi hanno fatto il posto in Italia, sono rientrato, conosco personalmente il professor Lanzetta, che non è più così giovane, perché me lo ricordo quando giovane appunto noi l'abbiamo aiutato, che mi saluto, che è mio carissimo, che è mio caro amico, che è un grande professionista. Naturalmente allora io dico che come in medicina bisogna avere le best practices e basarsi su quella che si chiama evidence-based medicine, così situazioni isolate possono rappresentare anche un appeal dal punto di vista della stampa. Naturalmente, perché vengano generalizzate bisogna dimostrare che siano generalizzate, che in Italia ogni tanto avvengano delle cose che potrebbero funzionare meglio, quello siamo d'accordo, ma che sia uno scandalo così generalizzato è forse anche in parte dovuto all'uso italiano di gridare sempre lo scandalo. C'è un'esagerazione della stampa. Ma io dico, non sto dicendo che non sono cose vere, non sto dicendo che non sono cose vere, sto dicendo che in Italia c'è, semmai è stato secondo me più grave il problema dei precari che va risolto, ecco, quelli sono problemi reali. Ecco, per esempio Massimiliano Cavallini, che appunto come le ho detto ha avuto nel 2006 un finanziamento di 1.111.000 euro, Cavallini, sì, ricercatore del CNR di Bologna, a febbraio le scadono i 5 anni famosi non prorogabili secondo la legge 133. Per tirare la fila, Cavallini. Ho una risposta. Sì, infatti. Ci dovrebbero essere dei meccanismi tali per cui uno, se presenta dei programmi buoni, può avere dei finanziamenti così come avviene in America, i quali garantiscano anche lo stipendio permanere. Ricercatore. Cavallini, lei ci auguriamo che tra breve anche in Italia sia così. Cavallini, lei vuole rimanere in Italia? In realtà. Esatto, io diciamo, forse sono capitato in una realtà particolarmente fortunata nel mio istituto a Bologna, che è molto c'è una produttività scientifica molto alta e diciamo, viviamo forse in quella che può essere considerata un'isola felice, almeno da certi punti di vista. Qui il problema è di carattere più generale, che attualmente con questo decreto mi trovo in questa situazione paradossale, essendo vicino alla scadenza del contratto, insomma, la cosa diventa anche preoccupante. Certo. Quello che volevo mettere in evidenza io, visto che il sottosegretario viene anche lui da un ambiente scientifico, è quello che le realtà virtuose che sono presenti in questo paese, almeno nell'ambito della ricerca, sono facilmente identificabili tramite indicatori di valutazioni internazionali. Ci vuole la volontà per farlo. Esatto, ci vuole la volontà reale e concreta di mettere in pratica quello che adesso sulla bocca di tutti. Si parla tanto di meritocrazia, si parla tanto di premiare il merito, le persone che hanno iniziativa. A questo punto da parte dei politici si tratta di mettere in pratica queste cose. I parametri di valutazione ci sono, la volontà almeno... quella deve arrivare, ma nel ringraziare tutti, perché poi mi devo fermare, insomma, ma non è solo nel campo scientifico, in questo di meritocrazia in Italia ci si riempie la bocca tutti, in tutti i campi. Poi è bella dirla questa parola, no? È ridondante, suona bene, e poi bisogna anche applicarla. E qui, ma non nella scienza, ma in tutti i campi viene il problema. Io ringrazio tutti per essere intervenuti, sottosegretario Fazio, tutti i ricercatori che sono stati con noi, il professor Lanzetta. Torneremo su questo tema che è molto sentito, come vedo dalle telefonate, dalle mail, dai messaggi. Ringraziamenti come al solito a Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione, Giorgio Mattei in regia. Con Viva Voce ci ritroviamo lunedì mattina. Viva Voce.